Buonasera a tutti i radioascoltatori dei Colori dell'Anima. Allora, sono qui oggi, intanto sono Rosanna, per chi mi ha già ascoltato lo sa, ma comunque sono una delle conduttrici di questa trasmissione dei Colori dell'Anima, che come sapete va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22. Ed oggi ho il piacere di avere con me ben quattro ospiti, delle persone che conosco da molti anni e che, con le quali affronteremo così faremo una chiacchierata, diciamo, molto simpatica. E questa chiacchierata riguarda il colore dell'anima dei ricercatori. Allora, io naturalmente parleremo. Vedremo anche chi sono e io comincerei proprio con questo, col presentare le persone che sono qui oggi in studio con me. Allora, comincerei con il professor Giovanni De Gaetano. Giovanni. Buonasera. Allora, Giovanni, vuoi dire in poche parole chi sei? Sì, sono un ricercatore che ho studiato a Roma medicina, poi ho ottenuto il PhD all'Università di Lovanio, quindi mi sento un pochino a casa questa sera. E poi ho lavorato per oltre 40 anni nella ricerca scientifica, occupandomi in particolare di problemi riguardanti la salute del cuore, la salute del sistema circolatorio e come questa salute possa essere mantenuta, migliorata da stili di vita appropriati come l'alimentazione e la dieta mediterranea oppure da farmaci semplici ma importanti come l'aspirina. Allora, questo era il primo ospite, passiamo quindi subito alla seconda ospite, la professoressa Maria Benedetta Donati. Benedetta, puoi dirci tu? Buonasera. Allora, brevemente chi sei? Allora, Ti presenti? il compito è più facile perché ho condiviso con Giovanni De Gaetano, che avete già sentito, 50 anni quasi di studi e di vita, di passioni e di entusiasmi in comune. Quindi anch'io ho avuto il PhD all'Università di Lovanio, anzi Leuven, e mi sento in Belgio come nella mia seconda patria. Insieme abbiamo avuto una figlia che si chiama Kathleen e che è molto fiera di essere nata in Belgio. E mi sono occupata nel campo della ricerca soprattutto dei rapporti fra i due tipi più importanti di malattie nel mondo occidentale, cioè le malattie cardiovascolari e i tumori, questi due grandi killer della nostra società hanno delle basi in comune ed è su questo che ho concentrato buona parte della mia ricerca. Bene, e dopo passiamo ad un'altra ricercatrice, la dottoressa Chiara Cerletti. Chiara, buonasera Buonasera, a te. sono contenta di essere qua. Io ho dei legami mediati con questo paese, ma sono milanese, ho studiato biologia e da subito, appena laureata, quindi molto giovane, mi sono occupata di ricerca in un istituto di ricerche farmacologiche. E soprattutto negli ultimi anni il mio interesse è stato lo studio delle cellule del sangue che sono coinvolte in molte malattie, tra cui quelle sopra citate, che sono le piastrine. Penso che questo come Va introduzione bene, sia d'accordo. sufficiente. E quindi per finire, dulcis in fundo, chiediamo anche alla dottoressa Licia Iacoviello, Licia, di presentarsi. Ciao Licia. Ciao, buonasera a tutti. Io sono Licia Iacoviello, anch'io sono una ricercatrice. Di base sono un medico che però nel corso stesso degli studi di medicina ha deciso che la ricerca era, diciamo, la strada che avrebbe voluto seguire. e mi occupo appunto di ricerca da quando mi sono laureata. Il mio campo è soprattutto l'epidemiologia, cioè lo studio delle popolazioni per la comprensione dei fattori che portano allo sviluppo delle malattie o proteggono dallo sviluppo delle malattie. Negli ultimi 10 anni mi sono particolarmente dedicata a studiare la genetica come un possibile fattore di rischio o di protezione, prima per le malattie cardiovascolari e poi anche per i tumori o altre malattie cronico-degenerative. Allora, bene, come avrete notato, quindi abbiamo 3 ricercatrici e un ricercatore, che potremmo dire così, nel campo della ricerca biomedica, agroalimentare, potremmo riassumere. Il fatto che ci siano qui 3 donne e un uomo vuol dire, rispecchia la distribuzione che c'è fra i ricercatori in questo campo, o è casuale? Chi vuole rispondere? Ma penso che rifletta un po' la situazione, perlomeno, della ricerca in Italia. La ricerca non è ancora considerata una professione, è considerata qualcosa che è accessorio, per esempio, alla carriera universitaria, oppure accessorio all'attività clinica. Un medico, magari particolarmente sveglio, fa anche un po' di attività di ricerca, oppure un professore che insegna fa anche un po' di attività di ricerca. La figura del ricercatore come un professionista a tempo pieno non è molto diffuso, e quindi, non essendoci questo concetto, la professione, l'attività della ricerca si adatta di più alla nostra società, che potrebbe essere ben criticata, ma non credo che sia questa la sede per farlo. Si adatta di più ad un lavoro per le donne. Va bene, allora io direi, questa prima parte era solo di introduzione. Come dicevamo prima, la puntata di oggi si intitola Il colore dell'anima dei ricercatori, e quindi poi svilupperemo questo aspetto, diremo qual è il colore dell'anima, magari ci saranno più colori, ma vediamo se riusciamo a trovarne uno. Quindi mandiamo un po' di musica e a fra pochissimo. E questo era Battiato. Chissà il titolo di questo brano, vediamo se siete preparati. Allora, questo brano si intitola La cura. Vabbè, è un brano conosciutissimo e mi sembrava così un po' appropriato all'argomento di oggi dei colori dell'anima. Nella puntata di oggi stiamo parlando del colore dell'anima dei ricercatori. E volevo sapere se qualcuno di voi si era fatto un'idea di questo colore. Qualche impressione. Benedetta, per esempio, ci hai riflettuto? Beh, per me il colore dell'anima del ricercatore è rosso, perché per me il rosso è il colore che io preferisco, ed è anche il colore sinonimo di fuoco, di entusiasmo, di passione. Quindi per me si adatta molto a tutto quello che si richiede per poter dedicare le proprie energie alla ricerca. Invece vediamo Licia, per esempio. Sei d'accordo col rosso? Sicuramente il rosso rappresenta bene la ricerca, però per me potrebbe essere anche azzurro o giallo, che sono i colori del sole, del cielo, del mare, anche del Napoli. Questa fra parentesi, questa è una parentesi calcistica, diciamo così, e che appunto rappresentano questo sguardo verso questa ricerca della verità, della conoscenza, un po' dell'infinito. Mm-hmm. Quindi secondo me si accoppia bene al rosso, che sicuramente lo rappresenta bene comunque. Mm-hmm. Chiara, tu che dici? Beh, sono d'accordo con quanto è stato detto. Comunque, parlando di colori, mi viene in mente quando venne un pittore a visitare i nostri laboratori, Treccani, un famoso pittore. E, un pittore milanese? Milanese, esatto. Ecco, diciamolo. E ci chiese a bruciapelo: ma di che colore sono le piastrine? E noi siamo rimasti assolutamente incapaci di rispondergli. Quindi poi facendo delle ricerche, contattando un famoso piastrinologo che aveva guardato al microscopio elettronico le piastrine per tanti anni, americano, James White, nostro amico, lui ci rispose e ci suggerì che forse le piastrine erano color rosa pallido. E quindi mi piace associare questa idea di colore alle cellule che io ho studiato per tanti anni e che sono per me molto importanti. E infine Giovanni, tu che dici? Ma io penso vuoi aggiungere un colore? La ricerca è il colore del cielo di Bruxelles, è grigio, ma non perché sia un pessimismo, ma perché esprime il dubbio, l'incertezza. La ricerca è un'avventura dello spirito che è caratterizzata dal mettere costantemente in discussione se stessi, i dati che si sono generati, le certezze che si sono acquisite. È un grigio che non paralizza, ma rende la vita più attiva, come succede qui in Belgio. Allora, ed eccoci qua di nuovo in studio. Abbiamo parlato quindi dei colori che, come abbiamo visto, vanno dal rosso al azzurro, giallo, rosa pallido al grigio. E oggi appunto con Giovanni, Benedetta, Licia e Chiara stiamo parlando dei colori dell'anima del ricercatore. Allora, sono qui con loro in questa trasmissione di oggi dei colori dell'anima, anche perché loro sono venuti a Bruxelles per alcuni incontri e uno di questi riguardava la presentazione di un libro sulla dieta mediterranea. La dieta mediterranea ai tempi della crisi. Cosa significa, Giovanni? E intanto se ci dici anche un po' chi ha scritto questo libro e qualche informazione. Oh, è un libro pieno di colori, perché la dieta mediterranea è molto colorata. Dal verde delle verdure, delle insalate, fino ai colori multipli della frutta e del vino rosso e così via. Il libro è stato scritto insieme ad una giovane giornalista molisana, Maria Laura Bonaccio, ed è un po' l'esperienza, il frutto di un lungo lavoro di ricerca effettuato da tanti di noi nei nostri laboratori. La dieta mediterranea, come si sa, è un insieme di abitudini alimentari consolidate nel corso di tanti anni nei paesi del sud Europa, l'Italia meridionale, la Grecia, la Spagna, la Francia del sud, ed è caratterizzata in modo particolare da un uso abbondante e frequente di frutta e verdura, di cereali, in genere integrali, di olio d'oliva come grasso di condimento, di pesce, di latte, yogurt, magri, e con poca carne, preferibilmente bianca, pollo, tacchino, poca carne rossa, pochi dolci, questi ultimi riservati alle occasioni particolarmente festive e celebrative. Questo abito alimentare che ha garantito la salute dei popoli mediterranei e la garantisce ancora oggi, è in serio pericolo, perché le condizioni economiche in cui perlomeno il nostro paese, in Italia, la gente comune viene a trovarsi, rende difficile praticare la dieta mediterranea. Frutta e verdura sembrano dei gioielli che si vendano in gioiellerie più che in negozi specializzati. Il pesce costa molto più caro della carne, l'olio d'oliva che non sia contaminato, adulterato, è altrettanto costoso e così via. Quindi bisognerebbe che i governi, che l'opinione pubblica intervenissero in modo da garantire soprattutto ai più giovani, che hanno perduto questo senso della tradizione mediterranea, la possibilità di continuare a seguire un regime alimentare che riduce le malattie cardiovascolari, riduce i tumori e anche tante altre malattie di cui oggi abbiamo timore. Va bene, e per questo io chiederei anche a Licia, che lavorando quindi in questo gruppo di ricercatori si è interessata a questo tema della dieta mediterranea e comunque dell'alimentazione, dei benefici dell'alimentazione, che cosa ti ha spinta a studiare a interessarti di questo argomento di ricerca? Ma sicuramente cercare di capire come i comportamenti delle popolazioni possono influenzarne la storia di salute, e tra questi comportamenti l'alimentazione è sicuramente quello più forse radicato, quello più importante nella storia di una popolazione stessa, che ne forma cultura e quindi può incidere molto su come poi si evolverà la popolazione stessa. E lo strumento attraverso il quale si riescono a fare questi studi, che è l'epidemiologia, è sicuramente uno strumento poliedrico, perché permette di lavorare direttamente a contatto con la popolazione, con le persone, di cercare di capirne tutte le sfaccettature, tutti i fattori, tutte le abitudini, e poi di vedere, di osservare come tutto questo condiziona la presenza di una malattia, quindi l'intervento di una malattia, o protegge dall'intervento della malattia, poter poi sulla base di queste osservazioni effettuare degli interventi e poi verificare l'effetto di questi interventi sulla storia della popolazione stessa. Sicuramente studiare l'alimentazione è un fatto complesso, perché anche se apparentemente banale, chiedere a una persona cosa mangia e andare a vedere come questo si associa poi allo star bene o allo star male, e in effetti invece è frutto di complesse interazioni, di complesse conoscenze, perché si vanno a toccare vari punti della conoscenza, e varie metodiche di studio, dalla chimica alla biologia, alla statistica, all'epidemiologia stessa. Quindi è sicuramente un modo completo di approcciare il problema della salute. Bene, grazie Licia. Allora, io proporrei un'altra piccola pausa musicale prima di andare avanti. Ci ritroviamo quindi fra pochi minuti, sempre con I colori dell'anima e sempre su Radio Alma 101.9. E dopo questo brano musicale di Malika Ayane, ritorniamo quindi a occuparci del colore dell'anima dei ricercatori. Oggi con voi c'è Rosanna e ci sono 4 ricercatori con cui parliamo di questo argomento. Allora, tutti voi lavorate nel campo della ricerca, diciamo così, da oltre, possiamo dire, 20 anni o 25? Oltre anche 25. Di più, molto di più. Quindi da molti anni. Siete, vabbè, insomma, sicuramente sarete contenti di essere stati e di aver scelto questa esperienza di ricercatore. Però, per esempio, Benedetta, se tu non fossi stata ricercatrice, cosa avresti fatto? Quale altra attività si sarebbe avvicinata di più a quello che poi hai fatto veramente? Penso che avrei fatto la stessa cosa che la ricerca, cioè avrei cercato di viaggiare moltissimo. Penso che la ricerca ti permette di viaggiare in molti sensi, in quanto non solo fai viaggiare la tua testa, la tua intelligenza, la tua curiosità, particolarmente se sei donna, ti permette anche di incontrare persone di tutti i paesi del mondo, ti obbliga a studiare le lingue, ti obbliga a quel senso della relatività di quello che hai imparato, di quello che fa parte del tuo patrimonio personale, e al confronto con quello di altri. Quindi diciamo che la parola chiave è il viaggio. Bene, invece Chiara, volevo sapere da te, cosa ti immaginavi? Tu hai detto che hai fatto biologia. Se non fossi stata ricercatrice, cosa avresti fatto? Non so, l'insegnante, che so? La no. Suora. Ma questo, una suora può fare il ricercatore ugualmente, anzi. Io ho fatto biologia perché pensavo che volevo fare la ricerca. Ah, quindi già eri incanalata in questa... Diciamo che ero indirizzata su delle materie scientifiche perché mi interessava questo tipo di applicazione intellettuale. Però fin dall'inizio dell'università ho sempre pensato che non avrei voluto insegnare, ma avrei voluto applicarmi alla ricerca. Poi di fatto nella ricerca insegni anche, ma in un modo diverso da quello che noi consideriamo l'insegnamento cattedratico. Si insegna nel senso che chi lavora con te impara e segue con te le problematiche di questo lavoro. Tu, Giovanni, avresti fatto il frate? Passiamo dalla suora al frate. No, vabbè, chiedo questo un po' in modo provocatorio, perché volevo sapere se i ricercatori possono essere delle suore e dei frati. No, in un certo senso sì, potrebbero esserlo, perché la ricerca è qualche cosa di totalizzante in un certo senso. Uno che fa la ricerca la fa continuamente, quando è in ascensore, quando cammina. Per questo noi nei nostri istituti non abbiamo mai accettato che ci fosse un cartellino da timbrare, perché è veramente contrario allo spirito libero del ricercatore, che quando ha una tematica, quando è ossessionato da un problema che sta cercando di risolvere, non ha notti, non ha giorni, non ha vacanze, non ha mare, non ha montagna. Quindi in un certo senso è come essere dei preti o dei monaci, cercatori, questuanti in cerca della verità. E tu, Licia, vabbè, di te lo so, avresti fatto il medicuccio di campagna. Esattamente, avrei fatto il medico, non il medicuccio di campagna. Che è la cosa che io penso di fare anche adesso, nel senso che io penso di essere, prima di essere ricercatore, di essere medico. E attraverso la ricerca di esprimere in una maniera importante l'essere medico. Se non avessi fatto ricercatore, avrei fatto il medico, possibilmente in un paese dove c'era molto più bisogno che da noi della presenza di un medico. In effetti io mi sono iscritta a medicina perché pensavo di andare a fare il medico missionario. Durante i miei studi ho incontrato un gruppo di ricercatori che mi hanno fatto appassionare o che hanno messo in evidenza questa mia propensione, forse già presente, e mi hanno fatto anche capire che fare ricerca era un modo di fare anche medicina in modo missionario, nel senso risolvere un problema che poi sarebbe stato utilizzato dai medici per curare, era una maniera molto più larga di far qualcosa per le persone che soffrivano. Però sicuramente avrei forse seguito questa tensione, e forse andando a fare il medico in un paese bisognoso, probabilmente avrei anche cominciato a fare ricercatore, soprattutto avrei fatto ricerca in salute pubblica, cioè cercando di sviluppare un sistema di cura o di approccio alle popolazioni di quei paesi che potesse essere migliore di quello che c'è attualmente. Benedetta, perché vi ho fatto queste domande? Perché secondo te un ragazzo oggi che ne so, che sta per cominciare gli studi universitari o che magari ha finito degli studi universitari di tipo scientifico, ma non necessariamente, perché potrebbe iniziare una carriera di ricerca? Quali motivazioni dovrebbe avere per poter iniziare a fare ricercatore? Penso debba essere spinto dal desiderio della conoscenza. Naturalmente la ricerca può essere, come tu hai già detto, in vari campi, quindi può essere può essere l'astrofisica o può essere la biomedicina, e abbiamo già sentito anche da Licia un attimo fa come per esempio nel campo biomedico la ricerca prospetta diciamo un futuro di applicazione che soddisfa anche quelle che sono le esigenze di fare del bene per gli altri, di fare di correggere delle situazioni socialmente più scandalose, diciamo così, però in generale penso che per voler intraprendere una strada di ricerca ci vuole quello che è già stato detto da Giovanni, ci vuole una dedizione di tipo un po' monastico, un entusiasmo che faccia soprattutto nel nostro paese dimenticare le tante difficoltà che si presenteranno. Questo sarà tanto più vero se parliamo di una ricercatrice invece che di un ricercatore. Giovanni, tu ci vuoi dire magari se vi siete mai occupati di giovani nella vostra esperienza e se sì, che cosa avete fatto? Se diciamo, secondo te è possibile indirizzare magari anche chi non ha mai pensato invece di fare ricercatore a fargli cambiare idea o comunque a fargli considerare questa possibilità? La presenza dei giovani è stata una caratteristica costante in tutti gli anni e dovunque in questo periodo abbiamo svolto ricerca. Non si può fare ricerca seria senza avere attorno a sé dei giovani che imparano, e come parlare di Cimabue senza citare Giotto, non avrebbe senso. I giovani dovrebbero fare tutti un periodo di ricerca. Una volta si faceva il militare, adesso per fortuna non si fa più, ma ci vorrebbe una leva per ragazzi e ragazze che introducesse i giovani alla ricerca. Che cosa vuol dire? Introdurre allo spirito critico, all'indipendenza del pensiero, all'esprimere una fantasia che non è convenzionale, all'essere curiosi, in un certo senso ad avere tutte quelle caratteristiche che la società non vuole e non richiede ai giovani o che le famiglie non richiedono ai propri figli. Il ricercatore è una persona un po' controcorrente e quindi questo spiega perché abbiamo difficoltà con la politica, perché i governi non finanziano la ricerca, perché non vogliono che si sviluppi un pensiero autonomo, un pensiero capace di esprimere criticità. Quindi un paese che voglia investire veramente dovrebbe investire sui giovani semplicemente per aumentare il livello critico del proprio paese. E pensi che, diciamo, per quanto riguarda la vostra esperienza, siete riusciti a così a far capire questo perlomeno ai giovani che hanno avuto la possibilità di frequentare i vostri laboratori? Ma io penso di sì, e ricordiamo con molta simpatia l'esperienza cosiddetta dei summer student, gli studenti delle scuole medie superiori che durante l'estate hanno frequentato per tanti anni i nostri laboratori, ragazzi che nel giro di pochi giorni parlavano inglese, facevano esperimenti, stavano lì tutto il giorno senza voler ritornare a casa, un modo veramente nuovo, interessante, stimolante di affrontare la ricerca, di affrontare i problemi della conoscenza. Aumentare questo tasso di ricerca è veramente interessante, importante. Non casualmente abbiamo dei giovani che sono a Boston, dei giovani che sono anche qui in Belgio, a Lovanio, in Germania, che spendono la loro vita investendo sulla ricerca. È forse la consolazione e la soddisfazione più bella che abbiamo avuto in questi anni. Allora, io proporrei, prima di andare avanti, ancora un piccolo brano musicale. Ci ritroviamo fra pochi minuti. Vi ricordo anche che se ci volete scrivere, il nostro indirizzo di posta elettronica è icoloridellanima@radioalma.eu. Facile, no? icoloridellanima@radioalma.eu. Ci ritroviamo quindi fra pochissimi minuti. Mi raccomando, rimanete sintonizzati con noi, i colori dell'anima. ed era, come avrete tutti riconosciuto, Rino Gaetano con la canzone Gianna, naturalmente nella trasmissione I colori dell'anima, che come sapete va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22. E oggi stiamo parlando del colore dell'anima dei ricercatori, perché effettivamente sono in studio con quattro ricercatori. Abbiamo già visto un po' chi sono, abbiamo visto che cosa avrebbero voluto fare se non avessero intrapreso questa carriera di ricerca, ma vogliamo anche un po' capire che tipo di progetti fanno. Abbiamo anche visto che scrivono anche dei libri, e uno dei libri che hanno scritto recentemente, La dieta mediterranea ai tempi della crisi, è disponibile qui a Bruxelles presso la Piola Libri per chi volesse acquistarla. Allora, vogliamo parlare un po' di qualcuno dei progetti di cui vi siete occupati, anche per far capire meglio al pubblico dei colori dell'anima che cosa fate concretamente. Ma in generale il tema principale della ricerca dei nostri laboratori in Molise riguarda i fattori di rischio delle malattie e anche i fattori di protezione dalle malattie stesse. Questi fattori possono essere sia di tipo genetico, cioè quelli che abbiamo ereditato dai nostri genitori, ma sia di tipo acquisito. Faceva accenno prima Licia alle nostre abitudini di vita, alla cultura, per esempio anche alle abitudini alimentari. Noi ci vogliamo occupare soprattutto della prevenzione. Occuparci delle malattie è come occuparsi dei buoi, occuparsi della stalla, come si dice, quando i buoi sono già usciti. Noi ci vogliamo occupare delle stalle in modo che i buoi ci vivano bene dentro e non escano fuori sotto forma di malattie. Per questo l'impegno è soprattutto verso la prevenzione. Penso che Licia possa spiegare brevemente il progetto principale che abbiamo messo su in questi ultimi 10 anni e che si chiama appunto Moli Sani, con una lineetta in mezzo a sottolineare l'importanza di essere sani rispetto a quella di essere malati. Sì, il progetto Moli Sani è essenzialmente uno studio di popolazione, di epidemiologia, come vi dicevo prima, in cui si segue una popolazione, si studiano le sue caratteristiche e ne si segue la storia naturale nel tempo per cercare di associare queste caratteristiche allo sviluppo di una malattia oppure al non sviluppo e quindi alla protezione di questa malattia. In particolare con lo studio Molisani, che si è svolto nella regione Molise, una regione del sud-centro dell'Italia, una piccola regione di circa 330.000 abitanti, noi abbiamo studiato una fetta di questa popolazione di 25.000 persone dai 35 anni in su, studiando quindi circa un decimo della popolazione della regione compresa in questa età. Abbiamo studiato sia diciamo i maschi che le donne con un principio di reclutare non le persone indipendentemente l'una dall'altra, ma gli appartenenti ad un nucleo familiare. Quindi abbiamo estratto questo campione di popolazione casualmente dalle liste dell'anagrafe e una volta estratto un nominativo è stata poi coinvolta tutto il nucleo familiare di questo nominativo. Questo per due ragioni fondamentali. Una è una ragione di tipo prettamente scientifico, che è quella di poter poi effettuare studi di genetica, cioè di trasmissione dei caratteri genetici all'interno della famiglia. Il secondo è quello di considerare la famiglia come un'unità anche nell'ambito della salute, e quindi con l'idea poi di valutare se l'essere famiglia può condizionare le malattie e come praticare degli interventi all'interno della famiglia stessa. Comunque, ritornando a Molisani, queste persone sono state identificate in questa maniera un po' in tutti i paesi e i centri principali del Molise sono stati chiamati a essere visitati nei nostri ambulatori, laboratori, e a queste persone abbiamo fatto una serie di visite, cioè abbiamo valutato lo stato del cuore attraverso l'elettrocardiogramma, lo stato del polmone attraverso la spirometria, abbiamo valutato la pressione arteriosa, la distribuzione del grasso corporeo attraverso la valutazione del peso, dell'altezza e delle circonferenze corporee. Abbiamo somministrato una serie di questionari proprio per conoscere per filo e per segno tutta la storia, sia naturale, fisiologica che patologica, di queste persone, raccogliendo eventuali malattie, i farmaci che prendono e così via. E poi abbiamo fatto dei questionari molto dettagliati sulle abitudini alimentari, chiedendo alle persone cosa mangiano, quando lo mangiano, come lo mangiano, in che quantità e con che frequenza. E poi ovviamente abbiamo effettuato dei prelievi di sangue, abbiamo misurato una serie di parametri diciamo biochimici, che sono legati in particolare alle malattie cardiovascolari, come i livelli di colesterolo, i livelli di glicemia e così via. E poi abbiamo conservato una parte di questi campioni in una banca biologica in azoto liquido che si chiama Molibank. Perché conservare questi campioni in maniera così particolare? Perché la conservazione dei campioni ad un freddo spinto come quello dell'azoto liquido, pensate che in azoto il freddo che si raggiunge, la temperatura che si raggiunge è di meno 199 gradi centigradi. Questa temperatura così spinta permette di conservare per anni ed anni le caratteristiche delle molecole presenti nel sangue, senza permettere che nel corso del tempo le molecole perdano la loro attività. Quindi anche tra 10 anni, tra 20 anni, potremmo recuperare questi campioni e studiare, per esempio, delle molecole che sono state scoperte nel frattempo, delle attività nuove del sangue. Cosa poi abbiamo fatto? Abbiamo seguito nel tempo questa popolazione e a intervalli periodici andiamo a vedere quante di queste persone sono state ricoverate in un ospedale, perché sono state ricoverate in ospedale, quindi la causa di malattia, quante di queste persone eventualmente sono decedute, perché sono decedute, e invece quante di queste persone hanno continuato a stare bene nel corso del tempo che è passato. Pensiamo anche, nel corso del tempo, di richiamare queste persone per verificare direttamente con loro se le loro abitudini sono cambiate, se per esempio la loro pressione arteriosa è cambiata, se il loro peso è cambiato. Questo sempre con lo scopo di poter correlare diversi fattori e interazioni fra diversi fattori, in particolare tra la genetica e l'alimentazione, per esempio, e lo sviluppo di malattie importanti come per esempio i tumori, le malattie cardiovascolari, le malattie neurodegenerative e così via. Allora, volevo sapere intanto se nell'esperienza che voi avete fatto con questo studio Molisani la gente ha partecipato volentieri, cioè se in questo tipo di studi è facile o è complicato diciamo coinvolgere la gente comune in questo tipo di studi, e se sì perché ha avuto piacere di partecipare? Sì, sicuramente le persone hanno partecipato con piacere a questo studio, anzi dobbiamo dire che siamo orgogliosi perché la popolazione molisana ha risposto in maniera importante, e tanto è vero che abbiamo raggiunto con lo studio quella che in termini tecnici si chiama rate di partecipazione, cioè un numero di partecipanti molto alto, soprattutto rispetto a studi simili che vengono fatti negli Stati Uniti o nelle grandi città, nelle grandi nazioni, dove invece la risposta della popolazione è molto bassa, quasi come se la gente fosse seccata di essere chiamata a fare questo tipo di studi. Nel nostro caso, nella nostra regione, invece no, la gente è stata molto contenta di partecipare, ha sentito molto un momento particolare di un modo diverso anche di fare medicina. Questo perché? Perché al di là dell'utilizzo di questi dati per la ricerca, noi abbiamo effettuato un vero e proprio screening e prevenzione primaria per la salute. Cosa significa? Le persone, nel momento in cui sono venute nei nostri ambulatori, laboratori, hanno scoperto com'era il loro stato di salute, hanno discusso con noi come mangiavano, come praticavano attività fisica, se prendevano o non prendevano dei farmaci, anche se poi noi praticamente non abbiamo agito sulla terapia che facevano. E si sono sentite in un certo senso curate senza necessariamente essere malate, quindi hanno sentito che per la prima volta la sanità andava incontro a loro e non erano loro a dover richiedere l'intervento della sanità quando normalmente si fa quando si è malati, perché normalmente le persone vanno dal dottore, vanno nell'ospedale solo quando sono malate, mentre per la prima volta venivano chiamati perché stavano bene o semplicemente perché c'era un interesse alla loro salute, indipendentemente dal fatto che fossero malate o no. E loro hanno apprezzato moltissimo questo, questa attività. Poi i nostri laboratori di ricerca, come aveva già detto Giovanni, hanno sempre cercato di sviluppare insieme alla ricerca la comunicazione, cioè una maniera per stare vicini alle persone, per non fare gli scienziati ex cattedra o le cattedrali, se volete, nel deserto, ma per lasciare che la gente capisca cosa noi stiamo facendo. Penso che Giovanni può raccontare l'esperienza di comunicazione che ha accompagnato il progetto Molisani e che accompagna attualmente il progetto Molisani. Sì, da sempre nel nostro gruppo di ricerca lavorano dei giornalisti, giornalisti professionisti iscritti all'ordine, quindi non persone così che amano chiacchierare o fare la comunicazione. E questa presenza di giornalisti ha sempre sorpreso sia le autorità accademiche sia i responsabili con cui abbiamo avuto a che fare, perché è stato interpretato come una perdita di risorse. La ricerca c'ha già tanti problemi di finanziamento e uno non pensa di investire del denaro sulla comunicazione, sui giornalisti. Invece questo è fondamentale per qualunque lavoro di ricerca. Un dato non comunicato, un dato non utilizzato non è neanche un dato, e quindi è veramente importantissimo quello che abbiamo cercato di fare. E il libro a cui facevamo cenno prima è proprio il frutto di questo esercizio continuo di adattare i risultati della ricerca scientifica al miglioramento della vita quotidiana delle persone. Allora, siamo quasi arrivati alla fine della trasmissione di oggi e volevo, così abbiamo detto prima perché un giovane dovrebbe essere cominciare a fare ricerca, ma io vorrei chiedere a Benedetta se si può andare in pensione dalla ricerca. Beh, questa si dice che una signora non dice mai la sua età, ma questa domanda potrebbe farmi arrossire. Naturalmente da tutto quello che abbiamo detto scaturisce la conclusione che è difficile andare in pensione dalla ricerca, perché significa quasi mettere il silenziatore alla tua testa, alla tua capacità di ragionare, alla tua curiosità, e soprattutto perché non è solo l'attività della conoscenza, ma è anche la maniera di farla insieme ad un gruppo che rende difficile pensare che questo tipo di solidarietà, di patto con i giovani, come è stato anche più volte sottolineato questa sera, possa ad un certo momento interrompersi. E un'ultima domanda la volevo fare a Chiara, perché oltre ad esserti occupata di ricerca ti sei occupata anche, diciamo, dei costi della ricerca. Insomma, so che ti sei dovuta sempre così diciamo battere tra le cose da comprare, e sappiamo che nel mondo della ricerca non ci sono tanti soldi. Se tu potessi, che cosa cambieresti per ottenere più finanziamenti? No, è una domanda difficile, ma insomma era una domanda anche provocatoria, però vorrei sapere da te, si può fare il ricercatore meglio se si hanno i soldi, o comunque un buon ricercatore riesce a farlo anche con pochi soldi? Beh, tutto è relativo, comunque i soldi servono. E penso anche se i ricercatori notoriamente in Italia, nei nostri paesi, sono pagati poco, la ricerca ha bisogno di soldi per poter essere libera di agire come vuole. Se pensi che tutti i test biochimici, le analisi che sono state fatte in Molisani sono state supportate economicamente da un progetto di ricerca, dai progetti di ricerca e non dal sistema sanitario nazionale, questo ti dà un'idea dei costi che si debbono affrontare. E avere delle risorse economiche è fondamentale, perché ti lascia libero di dire quello che trovi, com'è, e di pensare di andare a indagare delle cose in modo assolutamente obiettivo. Bene, insomma, quindi diciamo che i soldi come al solito non aiutano, però se ci sono è meglio. Sì, sì. Allora, io volevo ringraziare tutti per essere stati qui presenti, mi ha fatto molto piacere, spero che ritornerete in gruppo da soli, ma insomma che ritornerete qui a Bruxelles a parlare ancora di ricerca e non solo. E quindi comincio da Chiara, grazie. Grazie a te, è stato molto interessante. Grazie a Benedetta. Grazie a te per lo stimolo e l'ispirazione. A Giovanni. Grazie, certamente alla prossima volta. E grazie da me, Rosanna. Voi naturalmente rimanete sintonizzati con Radio Alma e ovviamente concludo dicendo buonasera a tutti e ci risentiamo alla prossima volta. Buonasera. Buonasera. Buonasera.